Bruxelles si muove. Se la giornata di ieri ha segnato qualcosa, è la svolta europea che dovrà passare al vaglio di un vertice tra i paesi, che incontrerà prevedibili difficoltà, ma che rappresenta il segnale di un cambiamento radicale. La Commissione propone soldi a fondo perduto e di fatto l'embrione di un eurodebito. L'Italia in attesa si complimenta, festeggia e intanto litiga al suo interno sull'asse nord-sud. Lo scontro sul test d'ingresso in regioni come la Sardegna porta a uno scambio piuttosto duro tra il presidente di quest'ultima e il sindaco di Milano Sala. I lombardi non li vogliamo, sembrano dire alcune regioni, ammesso peraltro che i lombardi da mercoledì 3 giugno si possano muovere. Nelle prossime ore lo diranno i numeri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Di Simone Spezia. To do what I want at any old time. I'm free to do what I want at any old time. Come state? Come state? Sono le 6:31 minuti di giovedì 28 maggio. Siete lombardi e vi aspettate di rimanere rinchiusi nei confini regionali? Siete pugliesi, campani, sardi e non ci volete? A noi che veniamo da qua, che siamo qua a Milano, eh? 349-238-6666 per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Fatemele sentire, va. Confortatemi, che se devo rimanere qua chiuso in Lombardia per tutta l'estate, pur con tutte le bellezze di questa regione, almeno, no, mi date la vostra voce un minimo di conforto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, buongiorno dunque, con la task force di questa mattina, Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti e Giorgio De Luca in assistenza in redazione, il resto della redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Francesco Carafo, i nostri autori. E voi, come vi dico sempre, la vera task force di 24 Mattina. A proposito di task force, oggi c'è un intervistone di Vittorio Colao a Repubblica dove dice porteremo le nostre proposte al governo, però ci sono anche i retroscena dei giorni scorsi, quelli nei quali si racconta del presidente del Consiglio Conte che nelle riunioni con Colao, quando Colao parla lui fa altro, pensa ad altro, non... un feeling che non è mai scattato. Ci siamo. Come si diceva, adesso arriviamo a tutto questo scontro tra la Lombardia e altre regioni. Tra l'altro parleremo tra un attimo, se volete dirla vostra anche su questo, ci siamo, Ieri con l'approvazione di un emendamento ieri in Parlamento al decreto che riguarda le scuole, alle elementari vengono cancellati i voti e ritornano i giudizi. Dicevo, arriveremo a tutto questo, però sicuramente la giornata di ieri è stata la giornata della svolta europea. Una svolta che arriva dalla Commissione, che dovrà passare al vaglio dei paesi europei, con tutti i dubbi che conosciamo, cioè i paesi del nord che probabilmente osteggeranno una parte di tutto questo, i paesi dell'est che nei giorni scorsi hanno espresso delle perplessità. E però guardate che è un segnale politicamente importantissimo quello che è arrivato ieri. Sentiamo un passaggio rapido di Ursula von der Leyen. The Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, worth 750 billion euro. Eccoli qua, è 750 miliardi di euro che si aggiungono al budget europeo, e quindi il recovery fund, il cosiddetto recovery fund, che cos'è? È il fondo che la Commissione europea vuole varare per aiutare i paesi a recuperare dopo l'emergenza Covid. Ed è un fondo a 750 miliardi, in parte finanziato con debito europeo, quello che era un tabù per qualsiasi paese del nord Europa, a partire dalla Germania fino a poche settimane fa. E una discreta quota di questi soldi, un'ottantina di miliardi, anzi la maggior parte, cioè la quota più ampia, per così dire, quando si suddivide per singolo paese, andrebbe proprio all'Italia. Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. So che non è un problema di una o due o tre settimane, perché qui stiamo parlando di una cosa storica, di un appuntamento storico. È talmente importante che tutti capiscono che una settimana o tre settimane di differenza non cambiano nulla. Il commissario europeo Gentiloni. Questo credo sia una dimostrazione di solidarietà e anche di comune interesse, non è solo una solidarietà umanitaria, è l'idea che un intervento comune di 750 miliardi può contribuire a rilanciare l'insieme dell'economia europea, e credo che questo sia, mi auguro, un fatto storico anche per l'avvenire dell'Unione. Il ministro agli affari europei, Amendola. L'Europa sta mobilitando enormi risorse per combattere la recessione. Questo è positivo. Due mesi fa a me dicevano l'Europa ci ha abbandonato. Oggi il dibattito è su come utilizzare queste risorse. Quindi io credo che abbiamo fatto degli importanti passi avanti. E il leader dell'opposizione della Lega, Matteo Salvini. Noi aspettiamo dall'Europa non più promesse, ma soldi veri. Quindi se dall'Europa arriveranno soldi veri per gli italiani, noi saremo i più felici del mondo. Un ascoltatore scrive: Simone, non ti illudere, questi soldi, semmai arriveranno, non saranno disponibili prima del 2021, ma... A parte che non lo sappiamo, nel senso che sì, in parte così, sono stati attivati, ricordiamoci, anche altri strumenti, il fondo Sure, quello per questa sorta di cassa integrazione europea, i fondi della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, volendo anche il MES, io sommessamente continuiamo a dirlo da queste parti, insomma, tutto sommato un prezzo a tassi così bassi, un pensierino ci si potrebbe fare, per carità, lungi da noi orientare il dibattito politico su questo. Detto ciò, però, il grande tema, mi pare, caro Roberto Arditi, direttore editoriale di Formiche.net, buongiorno e come stai? Ciao. Bene, buongiorno, bene. Il tema fondamentale mi sembra la questione politica, ossia l'azione... Dico, a prescindere da quando arriveranno questi soldi, a prescindere da come reagirà il Consiglio europeo, cioè come poi questa proposta della Commissione verrà trasformata dalla riunione dei paesi europei, beh, l'atto politico è oggettivamente molto forte, su questo non c'è niente da dire. Ma l'atto politico è ai limiti del rivoluzionario, se consideriamo qual era il dibattito tra i paesi dell'Unione Europea fino al mese di gennaio, cioè un dibattito nel quale alcuni paesi, quelli scettici anche su queste misure, cercavano di ridimensionare il budget già relativamente modesto, cioè intorno a circa l'1% del prodotto interno lordo di tutta l'Unione Europea, cercavano di ridimensionare il budget 2021-2027. Cioè di renderlo più piccolo, di fare in modo che la possibilità di intervento delle istituzioni europee, al di là del lavoro della Banca Centrale, fosse più ridotta rispetto al passato. Quindi siamo entrati con quella di ieri in una stagione totalmente nuova dell'Europa. Rimane il fatto, Simone, sì, che come correttamente proposto a chi ci ascolta nella frase di Ursula von der Leyen che abbiamo ascoltato, basta riascoltarla nelle sue parole in inglese, si tratta di una proposta della sì, Commissione. Certo. E come tutte le proposte, non è una decisione. Questo diciamocelo. Naturalmente, a questo livello e in questa dimensione di proposta, non è ragionevole pensare che questa proposta verrà rigettata, abbandonata, stralciata dalla riunione dei capi di governo, perché è evidente che c'è un consenso politico di cui la conferenza stampa di qualche giorno fa di Emmanuel Macron e Angela Merkel è l'emblema più forte, cioè i due paesi più importanti politicamente da molti punti di vista dell'Unione Europea, che insieme dicono quella è la strada, e questo ovviamente conta certo, molto. Ha un impatto politico, ha un impatto politico fondamentale, anche perché la Germania è un paese guida per i paesi cosiddetti frugali. Ci chiedono ascoltatori perché si chiamano frugali, perché risparmiano più di noi, perché non, hanno, perché non hanno un debito pubblico così mostruoso come il nostro. Appunto. Ora, a questo punto però va detto anche che il programma prevede quello illustrato dalla von der Leyen. Prima dovrà essere approvato definitivamente. In secondo luogo prevede comunque di partire da gennaio del prossimo anno, perché questa è la finestra temporale dell'intervento dell'Unione Europea. Rimane un tema di questi mesi, che è un tema tra l'altro di competitività, ed è bene parlarne a Radio 24, cioè una delle grandi questioni italiane è fare in modo che questo periodo che abbiamo davanti, e in particolare l'anno in corso, non si traduca per le imprese italiane, in particolare quelle che esportano, in un problema di competitività con i loro concorrenti che nella quasi totalità dei casi sono europei, per essere molto chiari, cioè olandesi, tedeschi, francesi, danesi sono i nostri partner europei, benissimo, sono paesi amici, ma sono anche le nazioni che ospitano la gran parte dei nostri concorrenti in tutte le eccellenze, dall'agroalimentare all'elettromeccanica e così via. Quindi in Europa è in corso una partita di solidarietà politica di cui alla von der Leyen, ma anche di feroce concorrenza sui mercati internazionali e quando ripartiranno dopo la pandemia. Diciamocelo, perché sennò ci raccontiamo delle balle tra noi e non è il caso. Assolutamente, assolutamente. E questo vuol dire che nell'ambito di questo periodo, che sarà un periodo chiaramente con una disponibilità di fondi che da tempo ci dimenticavamo, anche per la possibilità di fare debito che ci è stata concessa per la sospensione del patto di stabilità, sarà un periodo da sfruttare per fare le famose riforme, tutte quelle che mancano, di cui alcune costano, ma altre sono a costo zero. Penso per esempio al taglio della burocrazia, al risolvere tutta una serie di problemi strutturali, la giustizia civile, tanto per fare un esempio, che è uno dei tanti motivi per i quali in questo paese non si investe. Insomma, molte grandi riforme fanno risparmiare soldi, se le si fa. Non solo non costano, ma producono risparmi e un utilizzo migliore dei denari. Quindi diciamo che anche l'Italia è di fronte a un momento storico. Ieri per l'Europa è stata una pagina, almeno sul piano politico, rivoluzionaria. Sì. Noi però non dobbiamo ragionare, essendo noi un paese per alcuni versi un po' cicala, noi non dobbiamo ragionare dicendo tanto adesso ci inonderanno di quattrini, così faremo come ci pare. Prima, perché non sarà così, nel senso che il mondo continuerà a guardarci, a giudicarci, a cominciare dalle agenzie di rating, perché comunque la parte più cospicua di tutti questi denari saranno debito pubblico, e su questo non si discute. Sicuramente. E questo ci sottoporrà al giudizio. Sì. E la seconda è che queste occasioni, questi passaggi storici, vanno utilizzati in modo virtuoso e non in modo sprecone. Sì, vedremo cosa succederà. Diciamo così che quel che abbiamo visto con gli ultimi provvedimenti che hanno a che fare con Alitalia non ci confortano su questo fronte, però, però vedremo naturalmente. Allora, mentre l'Europa sembra trovare una nuova unità, vedremo quanto durerà quest'unità naturalmente, dove ci si spacca è all'interno dell'Italia. Un ascoltatore scherza e dice: beh, insomma, forse diventeremo europei prima che italiani. Ci si spacca sull'asse nord-sud. Il tema è questo. patentino sanitario, che poi non ha una base scientifica, una grandissima base scientifica, almeno per il momento, a dire il vero, proposto dal presidente sardo Solinas, che poi è stato nostro ospite nei giorni scorsi, lo ricorderete, al quale, che trova l'appoggio anche del presidente siciliano Musumeci, e che fa reagire il sindaco di Milano Sala in questo modo. Magari se fanno una patente di immunità o qualcosa del genere. Ora qui parlo da cittadino, prima ancora che da primo cittadino. Io però, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò. Però Milano la conosce. Qui, se si va in giro, di accenti milanesi se ne sente pochi, no? Noi abbiamo sempre accolto da tutta Italia, adesso da tutto il mondo, un momento in cui noi siamo in difficoltà, insomma, sentirci trattare da untori non è la cosa più bella della vita. Tutto qui. Un altro sindaco, Luigi De Magistris. In questo momento, se dovessi decidere adesso, a mio avviso non ci sono le condizioni per consentire liberamente uno spostamento dalla Lombardia e dal Piemonte, in particolare verso le altre regioni. Quindi o si garantisce la previa acquisizione del tampone negativo. Così De Magistris, ci scrive un ascoltatore a testimonianza di un clima che si surriscalda. Secondo me il modo sbagliato di affrontarla, lo dico con il massimo rispetto per le opinioni, che non venga, ci scrive, che non venga più un sardo o un siciliano a curarsi in Lombardia. Dai ragazzi, non è il modo di ragionare, mi pare. Traffico. Mattino. Oh, tra l'altro Roberto, ci chiede un ascoltatore, dice, anzi chiede direttamente a te, Marditti ce l'ha l'esempio di una riforma fatta in Italia negli ultimi 40 anni che abbia fatto risparmiare uno solo? Io sinceramente fatico a ricostruire. Facciamo un esempio, un reale e non fittizio, perché di quelle fatte. Ogni volta e un po' si è fatto anche in Italia, ogni volta che nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione si passa dalla carta al digitale, penso per esempio alla PEC, che comunque ha fatto un po' di strada anche nel rapporto tra cittadino e istituzioni, sì. Ecco, in ognuno di quelli, di quelle riforme, sì, sono riformine, no? Sono atti amministrativi, vabbè, in realtà, però è vero, c'è un risparmio di tempo, quindi di soldi, tempo, denaro, eccetera. Tanto per fare un esempio. Un po' di passaggio al digitale, tanto per fare un esempio. Senti, questa questione della divisione nord-sud che si sta creando, insomma, abbiamo sentito De Magistris, Solinas, Musumeci, Emiliano che dice che i contagi della Puglia vengono dalla Lombardia, insomma, no? È delicato il momento, mi pare. Sì, stavolta, secondo me, tutti, in particolare gli amministratori, le preoccupazioni di alcuni, come De Magistris che abbiamo ascoltato, le comprendo, le preoccupazioni delle zone d'Italia dove il contagio è ormai bassissimo, quegli amministratori cercano di fare tutto ciò che è possibile per evitare che questa tendenza cambi, no? Questo è comprensibile. Consiglierei a tutti quanti di scegliere vocaboli ed espressioni non indirizzati a cercare di avere il titolo alla radio, in televisione, sui giornali, e quando si parla del patentino, si cerca il titolo, parliamoci chiaro. Sì. Perché già abbiamo un sacco di problemi. Se poi la mettiamo che cominciamo a dividerci tra 50 chilometri sopra e 50 chilometri sotto, per esempio ai confini del Po, e allora di qua e allora di là, la vedo un po' complicata. Quindi, secondo me, tra gli atti di responsabilità che tutti i grandi sindaci delle grandi città, i presidenti delle regioni dovrebbero mettere in atto nei prossimi giorni, è di non alimentare le polemiche. Dopodiché è vero che in Italia i tassi di contagio sono diversi e in qualche modo bisognerà tenerne conto. Questo è vero, ma diciamo così, siccome è vero, non c'è particolare bisogno di sottolinearlo, proviamo a dirla così? Sì, sì, un po' più di calma. Buongiorno Roberto Rampi, senatore del Partito Democratico, che tra l'altro è lombardo, Rampi, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno a voi, poco fuori Milano, Vimercate, eccolo qua. Allora Rampi, non le chiederò se riesce a far vacanza, perché immagino che un po' più di mobilità voi ce l'abbiate, insomma, se riuscirà a muoversi alla Lombardia, perché immagino che insomma Roma ci vada per lavoro. Ascolti Rampi, lei è tra le persone che ha presentato questo emendamento approvato che riporta il giudizio al posto dei voti alle elementari. Ci spiega la ratio, posto che magari anche una domandina sul tema della riapertura delle scuole, che qua insomma gli ascoltatori mi si scatenano e anche giustamente direi gliela farò. Prego Rampi. Beh sì, certamente quella è sicuramente la cosa più importante, però è importante anche capire poi nella scuola che cosa succede, appunto, cioè apriamola, anche che scuola facciamo, e questo tema del giudizio è un pezzo di questa risposta, perché i numeri hanno una loro violenza, una loro freddezza, e tante volte i bambini non li capiscono e diventano anche un elemento di catalogazione basta, mentre il giudizio è qualcosa che ti prova a spiegare come è andato il tuo percorso, cioè non tanto a dirti hai passato o non hai passato un'asticella, ma a raccontarti chi sei, a cercare di spiegare il percorso di apprendimento che hai fatto. Questa cosa è molto importante, cambia il modello, dà una spinta in una direzione che secondo noi è molto più importante. Devo dire che le reazioni dopo l'approvazione di ieri sono state molto positive, ci hanno scritto tante persone e ci ha scritto anche qualche bimbo degli elementari tramite la mamma, dicendo proprio vi ringrazio perché a me serve a capire che cosa è successo. Mi ha colpito perché Nel vostro emendamento si prevede una sostituzione proprio, cioè non ci sarà proprio più il voto, non ci sarà più il 5, il 6, il 7. Proprio così. E tra l'altro un tentativo di vecchia data, che anche nel corso della scorsa legislatura avevamo provato. Ci sono opinioni anche molto diverse su questo tema, infatti non è che si era arrivati ai numeri per caso, però io resto convinto, i miei colleghi, appunto tante persone, che può sembrare una piccola cosa, ma dietro un tema come questo c'è un approccio all'insegnamento. Rampi, c'è chi dice in realtà in questo modo però innanzitutto non dai un'idea precisa della condizione di apprendimento del bambino, e dall'altra parte togli un po' di grippa alla scuola, permettiamola così. Ma io ho un paio di convinzioni, intanto che noi diciamo questo modello competitivo che piuttosto dominante la nostra società non è che sia un modello poi così valido, quindi forse soprattutto sui bambini piccoli, perché è lì che si applica questa nuova norma, non abbiamo bisogno di dirgli appunto chi ha vinto, chi ha perso e come si è classificato. E seconda cosa, certo è in qualche misura è meno oggettivo, ma anche qui i bambini sono tutti diversi, questa è la verità, quindi non possono essere messi in una scala di gradazione numerica, bisogna per ognuno di loro provare a dire che cosa sono riusciti a fare, che tipo di percorso, da dove sono partiti, dove sono arrivati, quali sono i punti forza, quali sono i punti debolezza, insomma è un modo più completo di rappresentare un bambino, una bambina e il suo rapporto con l'insegnamento. Rampi, sulla questione dell'apertura, della riapertura delle scuole, ormai è fatta, ce lo dobbiamo dire, insomma tanto l'anno scolastico è finito, però sinceramente siamo in molti a pensare che forse si potesse fare qualcosa di più, si potesse fare un pensiero in più sulla possibilità di riaprire almeno parzialmente le scuole. È stato un errore del governo questo? Ma io... Oddio, sto chiedendo all'oste se il vino è buono, perché lei è del PD, quindi fa parte della maggioranza, insomma, però... Le assicuro che non avrei problemi a riconoscerlo, penso che gli errori ce ne sono stati, in questi mesi li abbiamo fatti tutti tanti, anche perché questa situazione è assolutamente inedita, non la conoscevamo, quindi abbiamo proceduto a tentoni, abbiamo sbagliato noi, hanno sbagliato governatori, sindaci, c'è stato un periodo in cui dicevamo tutti di riaprire, io devo dire la verità un pochino meno, e non era il caso di farlo, insomma ne abbiamo fatti gli errori. Questo non lo era, perché purtroppo anche quando qualcuno dice ci si è dimenticati dei ragazzi della scuola, non ci si è dimenticati, solo che purtroppo lì si concentra tutto, perché proprio perché la scuola è così importante ci passiamo tutti, no? Ci passiamo come genitori, come nonni, come zii, ci vanno i bambini, poi i bambini vanno a casa e incontrano altri, ed era il principale luogo del contagio. Siccome questa emergenza non è finita, e quindi anche qui ogni occasione è buona per ricordarlo, ci stiamo affacciando fuori di casa, facciamo benissimo farlo, però con prudenza, oggi le scuole era troppo complicato aprirle. Bisogna assolutamente aprirle a settembre, si sta lavorando per questo. Sì, sì. Io spero, francamente spero che a settembre si riaprano, posto che non debbano richiudere subito perché si vota per le regionali il 20, e quello è un altro grande, quello è un altro grande tema. Io mi sento di garantire che si apra, ma anche qui ovviamente non è per niente facile, perché per farlo significa avere meno bambini nelle singole classi, e purtroppo né gli insegnanti, ma soprattutto le aule, non si moltiplicano con un colpo di bacchetta magica, per cui è piuttosto complesso. La ringrazio, grazie Roberto Rampi, senatore del Partito Democratico, insomma, anche se con tutte le perplessità che sollevano entrambi gli argomenti. Se volete esprimerle, 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Grazie anche a Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net. Volevo farti dire una cosetta anche su questo, Roberto, ma non c'è tempo, non c'è tempo. Alla prossima. Avrei voluto anche farvi sentire Sandra Milo, che ieri si è incatenata. Ce l'abbiamo il tempo, Carmelo, Lauricella, un audio, va. Perché scusi, si può stare a casa e chiedere voglio questo, voglio quell'altro, no, sarebbe comodo, però non è possibile. Per i lavoratori dello spettacolo, incatenata davanti a Palazzo Chigi, poi ricevuta da Conte, si è emozionata, quando Conte l'ha chiamato non riusciva a slegarsi, però insomma un altro settore in difficoltà. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Molte cose, comprese le vicende della magistratura, che mica sono finite.